ma alla fine mi sono fermato, cioè mi stavo guardando gli altri, c'era questo, aspetta come si chiama, uno, adesso mi viene il nome, però era una cosa allucinante, bello, negli anni 70. No, no, Jaguar si chiama, ma adesso vedo il nome Jaguar. Di questa parecchia, figurati. Lo so, assolutamente, non è che sia, magari dove sto vado a te, se discorso diverso, non c'è il diploma, cambiano le cose. Buonasera. Buonasera, vabbè. Vabbè, tutto a posto, signore, stava su. Tutto a posto, sei un fruscio strano però. Ho chiamato al centro, ti sei preoccupando tu che io, non si preoccupa, cazzo, la sua mica la sua, questo qua è stato un po' scorretto, comunque non ci sono problemi, dai. Ma quando ci sono in mezzo io vedo che le cose funzionano bene, è un'ottima radio, te lo ripeto, risponde bene, ti ascolto benissimo, c'ha un po' di tutto, però io sono molto pignolo, è perfetto, non c'è un grazie, attenzione, non è che però devo darle una pulitina come dico io prima di fartela vedere, perché così secondo me non è perfetta, perfetta. Comunque questo è il microfono suo, cioè il microfono mio, che ha le stesse connessioni. Adesso ti faccio sentire il suo microfono e ti metti a cagare. Claudio, gli strumenti sono affidabili. Sì, sì, perfetti. Aspetta che cambio il microfono, ti metto il microfono suo nel pace. Così lo faccio sentire a Gianni, a vedere. Questo è l'SB e la Palma, amplificato suo, cioè mio, però che va bene lì. Adesso ti faccio sentire il suo microfono. Questo è il suo microfono, Robe, microfono del pace. Diciamo il livello non è basso, però la voce è molto diversa, dai, però già va bene lo stesso, dai Claudio, cazzo, io rispetto a quello che so io sicuramente va bene lo stesso, dai. Non lo so, qualcuno dice che si accontenta gode, io non mi accontento così facilmente, capito? Comunque, non lo so. Questo è il suo microfono originale, ti ripeto, dobbiamo provare l'MV+4 a vedere se spinge bene, non lo so, se spinge bene, bisogna vedere. Sei al massimo perché con questo Claudio? Allora, amico. C'è il regolatore anche dal microfono, cioè dal palmare, dal palmo o solo dall'apparecchio? No, tutto il macchinino sollevato, l'altro invece avevo tutto il macchinino sollevato, però anche l'amplificazione del microfono, capito? Allora questo microfono che sta dicendo qui? No, è il microfono suo originale, della Apache, non ha nessuna amplificazione. Ah, ho capito che se avessero l'amplificazione niente, come non detto allora? L'amplificato ce l'ha il mio, io c'ho un SB da Palmo che c'ha l'amplificazione, è amplificato. Poco fa ti stavo usando il mio, adesso questo è il tuo in dotazione all'apparato. Ma capa, no, ho capito che anche questo aveva il microfono amplificato, dai, come non detto. Vai, gappa, li prendi Gianni. Qui al limite si fa più un po' la DC se c'è la fila. Magari se non spingi con quello SB va benissimo, è una bomba. Pensavo che fossi col pugno. No, questo è il suo microfono normale. Quello da palmo della pace. Adesso metto l'altro, il mio, vai, che differenza c'è. Gianni. Oh, senti, cos'è brutta questa cosa? Avvicinandosela così non è male. Veramente poi faremo un confronto con la voce mia rispetto all'apparecchio che c'è attualmente. Infatti. Questo invece è il mio microfono, che tu non sto battendo, c'è un ricettore CB Pace 1000B, che praticamente adesso sto prendendo la pagina a vedere. Sono in legno, Robe, compro subito 135 euro, mancano 6 giorni, 22 ore e 43 minuti. Claudio, per il momento mi ha contento di questo, poi più avanti ne parleremo. E ho messo un altro. Allora, lo stesso, e questo è molto più bello, perché quello è in legno, quello che piace a me. Animale che non è altro che, no, che bello, che bello, no. 135 euro compra subito. Cretino che non è altro. Questo è il mio microfono, Robert, va bene, sì. Grazie, Claudio, va benissimo. No, ma magari che tu vai pure un frequenzimetro, questo che ha messo adesso il tic. No, questo c'è il frequenzimetro. Questo c'è anche il microfono da tavolo. Beh, lo shooter da tavolo, cioè no, non ne ha frequenzimetro. Non è a frequenzimento, però è in legno, guarda. Ti faccio il microfono originale e lo shooter da tavolo. Guarda, animale, guarda, vedi che poi quando dico che non è un animale. Ultimo apparato in vendita, guarda, Pace 1000B, perfettamente funzionale, disegnato in lezione, perfetto anche in SB, centrato in frequenza, qui quindi non teme il confronto con i colleghi in contatto a tratti HS professionale. Concedete non una precisazione sulla modulazione fantastica, simile ad un apparato valvolare, se utilizzerete un microtunnel oppure uno Shure 444, guarda, e te lo sto dando in dotazione, guarda. Bastardo animale che non è altro, guarda, me lo mette anche, guarda, guarda, guarda, guarda. Questo c'è un altro solo, vabbè, a tre scale. Il coso è praticamente meccanico, guarda, il coso è meccanico. Guarda. Dopo aver elencato il VNT 217, quindi se ti siete bla bla bla. Come semplice marcatore esterno, vabbè, se lo vuoi usare con i noci, tutte noci, guarda, radica di noci, conosciute, guarda, animale, guarda. Attenzione, nelle foto noterete i microfoni, non fanno parte, l'ha scritto. Attenzione, nelle foto noterete i microfoni, non fanno parte dell'asta, ma per farmi perdonare nell'asta è compreso il lineare a valvola. Per pre-kit perfettamente funzionante, garantendo reali 25 watt in AM80 in SSB. Ma che c'è un truffaldino, mi mette queste tranzate, questo c'è uno strumento solo, vabbè, però con tre scale, quindi Rose metto watt, metto Smitter, capito? E poi ecco, vedi, questo è bello, questo è più bello di quello che hai preso, perché? Perché c'è la colonnina davanti, come il mio Inuit, ha lo strumento meccanico come il mio Inuit, ed è precisamente con l'Inuit, questo ti dicevo io già. Ma solo che ho preso io il wattmetro, ce l'ha. Wattmetro? No, c'è solo il rosmetro, è la calibrazione. Lo che dico io, quello che ho preso io? Ria. Ne ha due, questo è mezzo, la calibrazione di cosa? Della modulazione? No, la calibrazione dello strumento, è questo, lo sto usando io. Tu praticamente calibri lo strumento nella scala, lo strumento rimane sempre sulla scala e sull'altro strumento ti indica le frazionali e poi l'altro c'è lo Smith. Delusione, roba, lascia così. Abbiamo preso 110 euro. Ma la chiamata, quando questo fu fatta fuori, glielo prendo. Guarda, il mio non ha le bande laterali, ti ripeto. Il mio non ha le bande laterali, che non me ne ha fatti brutti niente. Però, vabbè, io ti porto il mio e ti porto il tuo. Anzi, vieni qua a prendertelo il tuo, perché te lo voglio far vedere funzionante qua a casa prima di l'altro. E tu vieni di noi. Secondo me ti innamori prima di noi che io del tuo. Il mio ce l'ha frontalmente, uguale a questo qua che c'è in foto, al 1000, al Pace 1000, è il gemello del Pace 1000 il mio, uguale, preciso identico. C'è quello che sto dicendo io o dove ce l'ha lateralmente? Nulla, sotto di là, come ti vedrai di 50 anni fa, non c'è niente davanti, detto che ne ho preso una delusione. E va bene, ormai è successo, Claudio, è inutile che venga, è importante che funzioni, e la stessa giocata se non funzionava. Ma non funziona, già funziona. Non è maltrattato come apparato, infatti niente di più. Perfetto, ci vuole solo una pulitina, un po' tutti, una pulitina con il rilassatore, insomma, ho messo lucido come il mio. Ciao, ci sentiamo, dai, ciao. grazie per tutto quello che ha fatto per l'affare. Ha detto grazie di tutto, ci sentiamo con calma. Ok, questo time va un po' acceso per veloce, ce l'ho. Questo è il mio microfono, sempre Roberto. Sempre con me o stai usando? Sì, sì, sempre col tuo. I 10 watt li puoi misurare, adesso li hai misurati poco fa. No, non li ho misurati, vabbè. E dimmi cosa c'ha allora, quindi dei tasti, tutti quei tasti si sono portati sotto, ma guardate, cosa servono? Vabbè, è usato teoria, certo c'è lo squelch, il tono, la calibrazione, il clarifier, il mickey gain, lo squelch, il volume, poi per accenderlo e per spegnerlo, sono tutti i tasti normali, di funzioni normali, non è che ci abbia niente in particolare. Cambio canale, c'è un monofone come a scatti o continuo, come funziona? Sì, perché il turbaggio le luci hanno una cagata, è durissimo la cambiata. No, questo è morbidissimo, va bene. Sì, un po', si può anche ampliare, per dire, se uno vuole mettere più canali, si può fare o non si possono toccare qui? Ah, non me ne intendo io, non me ne intendo, assolutamente, non me l'ho piaciuto. Io ti posso una cosa, lascialo così che faccia meglio, capito? Lascialo così. Lo prendi, accendi, fai e basta, perché non so che cosa si possa fare, ma io preferisco non toccarlo sempre, poi. Chiaramente, ancora non so a livello di informazione, di cose così, non mi interessa assolutamente toccare niente, io sono contrario a toccare le cose. Vabbè, è così, va, funziona benissimo, non ci sono problemi, vabbè. Gianni. C'è dormito, chi c'è rimasto qua? Io. Vai avanti Antonio. Dimmi, sono qua. Avanti ti ho detto, riprendi. Cosa vuoi che ti prendo? Sono emozionato. Ma qualche cosa? È così. Ma perché sto muovendo con questa rabbia? No, i miei altri, sì, sono meglio di quella, la verità fritta. Questo potrebbe uscire anche meglio, non c'è problema. Devo solo applicarmi un po' e che stasera ne ho voglia, se no mi sarei trattenuto e fatto qualcosa di meglio. Ma non ha giugato c'è buccio, infatti tra un po' mi sto andando anche a letto. Capito? Altrimenti avrei provato a fare la connessione al Turner e agli altri microfoni, ma non ha giugato. Anzi, ho attaccato questo, già funziona. Ho capito. Andà bene. I canali funzionano tutti i cloud, tutto il problema di uscita non c'è niente. No, funziona tutto perfettamente. Beh, i tasti non graziano, non sono di graffianti e cose varie. No, è perfetta la radio, l'unica cosa che a me piace è la modulazione. Coronzio tu non lo sei. Qual è lo zio? Quello che ha detto lui a basso volume dice che era un ronzio. Io non ho fatto niente, poi lo vediamo assieme domani. Claudio, se ne frega che 100 euro, gratuito 110 euro, non possiamo pretendere la perfezione. Io sono 100 euro, non è che... Sono 101 euro, capito? 101 euro. Poi vabbè c'è la spedizione, quindi quella non si conta. Nico, se nel microfono sta andando alla grande, spinge anche. Tappa, riprendi Gianni se ci sei. E Luca, non si è sentito fra Luca e Mario? No, non sento nessuno, non so se c'è Mario. Mario? No, non sento nessuno io. Niente da fare. Aspetta, lo prendi con Cosuai, con Antonello. Vedi Antonello. Allora, come va, dimmi. Oh, già va bene, non ti preoccupando di me, Claudio. Sinceramente, un po' di fastidio mi dà, perché non sento frequentimento, però pazienza, dai, tutto non si può avere. Vedo un bel preoccupato più a Claudio. E non so perché tu io, vado avanti, sì. E io la di. Quando mi sufferò troverò qualcuno, ho fatto una voce, il trattore c'è un baracchino, 100 euro, gatto da sbagliato me lo dovrà venire, non penso che meno di 100 euro si riesca a prendere. Sì, ci sono baracchini in giro, mi ha cercato. Ormai non c'è più cosa, quindi quello che tu vedi, trovi, compra e basta. Dai, io sono contento, 100 euro su 200 mila franchi, sono un apparato che non ho problemi di alimentato da me, chi mi rompe con le scatole da avere l'alimentatore e mezzo di più. Allora, sono avanti, il Midland, l'Alan 48, niente da dire, però sempre con chi si in mezzo di più, l'alimentatore qua, eccetera, eccetera. Poi sono in casa tua stasera, ho passato davanti a casa tua in macchina, contro l'antenna, ci hai messo poco bene già, il giorno che ci hai messo con le due paraboli sono a fianco. Non ho capito cosa adesso, ripeti. Io ho visto l'antenna con le parabole a fianco, la tua. Si pulirono le parabole, no? Sì, sono male, a 2 metri io. Con la grossa, là te la sento più. Anche l'antenna non, già non fa male, diciamo. Sì, l'ho visto, l'ho visto. Può salire ancora, ma già va bene così, perché tanto c'è la possibilità, la staffa sono più che robuste, ultradimensionate. Possono inventarci altri 2 tubi più grossi, tanto telescopico, ma non me ne ho più nulla. Non ne voglio tirare cose varie in effetti. Basta così, fregatene. Tu non dormi la notte quando fai... Quello comincia a fare il vento che fischia, tutti i dindi. Io sono tagliare in vista quante le regge, quante altre la mia. Se si è passato di aver vista. Non interessa l'altezza, potete uscire, da bui, non mi interessa uscire forte, basso, no, non me ne farà più niente. Ora vai. Chi mi sente? Mi sente sentire un coso, un amplificatore mi sente. Ma più che bene, stasera c'era Paoletto, alle 2. Mi arrivavo dentro l'imboccatura del posto, lui era dentro il camion, Santiago 5, e mi ascoltava. A Luca per dire non riusciva a prendere. Beh, cosa che ti sentiva? A voi? Se non va bene, a me mi basta così, cosa mi nafuti con quale vuoi avere. Poi quando ci saranno delle propagazioni e cose del genere, magari ti puoi divertire se ti capita di ascoltare qualcuno da più lontano. È importante farti sentire qua in zona, sta. Giusto. Per quello, fregate. Io fate uscire, poi se non ascolta solleva l'antenna, già va bene così come ce l'hai, a tutti e dimmi. Io l'ho sollevata 2,5 metri, 3, non di più, parte a vatta, chi mi sente di che mi sente della biglia in culo. Che già gli non mi interessa più niente, ma mi dice c'è forte, se di più, no, non mi frega più niente. Avanti, Gianni. Ehi, sono a vedere quella parica che sta facendo con l'audio. È una bella bottiglia qua, non è detto bene. Praticava che c'era servizio dell'alimentatore del trasformatore perché non è da 220, è 135. E in più il microfono non te lo dà. C'è scritto che il regalo lineare è a posto del microfono che ti fa uscire il conflitto in parte, eccetera, eccetera. A me mi bagno tutti i vetri, visto già. C'è scritto che era l'ultimo che mette per la vendita. E perché fregato non la te alte prima? Prima sta mettendo quelli che magari ha i figli, che cosa può mettere i verdi, no? Per quello è il mio. A me non è che vale 250 euro. Quale amico? Non lo so, quale? Ma se non sei qualche euro. Sono qualche euro, caro mio. Mi ho aspettato il visto, ho fatto una promessa. Deve staccato. Perché non lo so che l'ho attaccato. Non ti fisso che non ti avuto questo, forse. Guarda, sollevo e fischia. Attaccato? Come mai ti innesca? Innesca perché non c'ho antenna. Perché innesca. Molte cose male c'è. Beh, no. Comunque gli chiedo, mi sono fatto come stavo usando prima. Ho fatto una promessa e l'ho mantenuta. Mi ha staccato il bip. Io devo pagare la beta. Però il telefono deve pagare la beta, non pensa niente. Se no rimetto un po' il bip e siamo tutti di prima. Ciao Claudio, devo andare in via Milano a correre, a culo. Allora non c'è problema, siamo a posto. Tu mi stai a culo. Quello? Eia. Il bip non ce l'hai sull'apparato, ce l'hai sul microfono. No, il bip era dentro l'apparecchio, se vuoi il bip, il microfono è questo. Eccotelo qua. Non potevo andare senza. Doppio bip, quindi, sai, cioè sull'apparecchio e sul corpo. Attraverso tutto sull'apparecchio il bip. Esatto, c'è la scheda Lembe. Qui c'è tutta la suoneria, pipiripipipipi. Esatto, sì. Perché c'è una battuta strana? Non sapete che c'era il bip del microfono? Il saletto è fatto così. Beh, anche l'eco con il microfono. No, l'eco non ce l'ha questo. Questo è il W Plus, l'eco master, c'è l'eco. Questo che stai dicendo tu che stai parlando adesso è un coso, un apparato fisso, stazione fissa. Questo è il cable di soltanto stazione fissa. Gaffa, gaffa. Danni. Sto vendendo al primo offerente, che facciamo l'altro baracchino, chi mi offre di più glielo do. 10 euro 20? Un cazzo te le do. 7 e anche 7. Ah, io ti dico 7 euro, non so, Puzzinoso, se avessi avuto le lavate avessi subito venduto. Puzzinoso, ti prego. 100. Ma neanche 100 lo do. 101, come ho preso il mio. No. Io ho offerte, guarda, che mi sono ancora l'orietto per questo apparecchio. Figurati. Ti voglio dare anche uno scooter per questo apparecchio qua. Sì, ma gatto, dimmi, gatto. Di persona, di persona. Califfi non ne ho io a casa, sono un povero. Se adesso tutti volevano dare uno scooter, io ti do un califone. Mi interessa, ce l'ho anche io la moto. C'ho un coso, un chimico in campagna, lampato. Tu non c'è un califone, c'è la moto califone. Io la conosco, io la conosco. Ma come la mia, eh? In confronto alle F10, quella forse meglio delle F10. Ma lui castigo te la do pure. Ho avuto le F10, faccio 120. E via Carlo Felice in azzarda, cosa ridere? Sì, ma era truccata. No, l'ho comprato che non era truccato, la verità. Perché non sapevo niente. Quando gli ho cambiato i cosi, come sono gli apparecchi, si mettono dietro, gli apparecchi sono dei piccolini. Cazzo, faceva 120, faceva la vista, via Milano. Sembrava un sicuro. Come c'è lui la salita, per forza? Sì, gli ho fatto solo i nulli. E poi è durato un mese, l'ho comprato il 26 novembre, il 26 dicembre mi ha rivolato, c'è ancora la cosa, hanno fatto l'affare. Nelle frizioni sembrava che avessi il simbolo dell'aereo attaccato. Lì c'è una serra, la serra era buona. Se vuole, ce l'ho anch'io. L'hanno sequestrato una cosa a Calancoie, figurati. Felice che arrabbi, perché questa non ne aveva le voci, allora ho dovuto testare i cerchi, poi montare tutti i raggi, ho costruito un coso per centrare, piano piano si può costruire, adesso se mi porto la volta a raggi sarà ricostruito, si sarà piano. Praticamente da mettere i cappuccetti azzurri, ci sono i cappuccetti azzurri, rossi, gli alli. Adesso vediamo. Vabbè, vediamo di fare qualcosa domani, intanto fa a casa, mi metto, allora, le faccio queste cosettine, non ti preoccupare. Ricordati domani quando scendi in officina di portarmi il microfono, così non ti faccio risalire. Scendi nel microfono quando apri. Allora, fai il canale, di che colore sono? Rosso o di altri colori? No, tutto rosso. Non c'è che quindi rimangono rosse le sfumature? Sono, non sono bianche bianche, sì, c'è una sfumatura di rosso, ma se vuoi posso mettere i cappuccetti alle lampadine rossi e quindi anche gli strumenti rimangono rossi, però se lo usi al buio si vede poco lo strumento. Gaffa, gaffa. Ma gli strumenti sono bianchi, li mettiamo bianchi in originale così. Ce ne frega niente. Va bene così, va bene così. Chi c'è rimasto? Antonella, ancora c'è? Sì. Stavo sistemando questa radio di Roberto. Adesso ho finito, l'ho messa a fare. Io, a parte Gianni, tu chi c'è rimasto già? Non so se ci sia Antonio ancora, che ci sia. Perché poi io sono andato a finire fuori. Dammi il controllo con quell'apparecchio come arrivo rispetto a quello grosso che sei tu. precisissimo, non c'è problema. Io è abbastanza affidato, no, pensavo fosse così, solo per estetica. Per estetica, no. Ma c'è una radio buona, non è? Non pensare che non sia una radio buona. È molto affidabile, l'ho provata a tutte le parti, ho provata anche a mano laterale. Ho visto che spinge molto bene, molto selettiva. Il clarifer funziona, funziona tutto, è perfetta la radio. Ho paura che non spinga il microfono come deve spingere. Le spinge già. Se non spinge come le spinge, le vinci di più e basta. Che problema c'è? Infatti farò così, anzi domani metto al lavoro, vediamo un po'. Claudio, ma hai bisogno di un connettore nuovo o utilizzi lo stesso connettore? Ma lo stesso connettore, faccio le partite due figli, Roberto. Canale 2, uno per canale 3, così. Ehi, impazzito, ce l'ho anch'io sta fischiando in quell'apparecchio che ho io, nel pone, è così, cioè non nel pone, nella cosa. Fabio, stavo facendo cosa, mi sento ancora, sì. O devo io, il discorso è quello. Vabbè, che apparati fai tu? Due me ne sono rimasti, gli altri me ne sono tutti venduti, perché non ne vale manco la pena di stare sventando la 27. C'è anche un lineare 600 watt addirittura ancora, quello mi è rimasto, l'ho prestato e sinceramente non me ne pare neanche di usarlo, l'ho prestato la stare lì. Ma chi è che usa tutte queste potenze così esagerate in CD? Qual è? Non le sono più, una volta si usavano. Adesso non lo più. E come sono delle fai se c'è trovato a Sassari? Sì, la Franchetta Alghero era. E io credo che tu riesci a parlare, poi non lo riesci a sentire però. No, era appena che noi, che loro non sentivano, noi parlavo. Ma tu se c'è trovato, puoi fare per dire la debolso lì, un esempio a Castelsanto. Però tu a lui non lo senti. E gli sono l'amplificatore di antenna. L'applicatore se non c'è segnale cosa abbiamo di uscire? Tutto quello che ce ne dai amplifica. Però può essere utile magari se c'è la calata lunga, se c'è una fedeta, però se non ti entra niente, se c'è solo QRM di stufo, cosa abbiamo di amplifica? Beh, due bicchieri di vino me li sono bevuti. Sì, sono un sparatore, un ascolto. Così brutto o sì? Ah, certo, cosa fai dai. Mi piace la cosa, cioè la modulazione secondo me va bene. Naturalmente con l'altro microfono la fa musica. Ci vuole anche un condensatore da 0,01 sinistra, microfarad o millifarad, quello è un po' difficile. Sì, posso andare alla GBC anche noi, ma c'è. Vabbè, ma tu stai parlando di Roma Modena, io parlo con i vecchi in carta. Ehi, vabbè, io non ho uno di vista, faccio via, fai io. Ma una radio galena mi devo costruire. No. È una cavolata. Io. Ho detto Claudio, no, non è perché ho detto Mario. Tu stai usando quell'apparato mio, Claudio, adesso. No, sto usando il mio. Vi saluto a tutti e me ne vado a nanna. Ricordate Roberto, domani di scendermi al microfono, in officina, e così le faccio le connessioni alla radio, va? Ciao a tutti, buonanotte, QRT, bye bye. Io, ma domani perché non lavori tu? No, negativo. Ma vedi la mattina o il pomeriggio? No, no, domani mattina, domani pomeriggio sono impegnato. Domani mattina posso aprire il mio microfono, me lo sistemo e poi te lo riporto, ok? Ma caffa, buon corretti, ci sentiamo domani, allora. Ciao, buonanotte. Ciao, vabbè, buonanotte. Ciao, fra, buonanotte. Ciao, ciao a tutti, buon. Ciao, Claudio, buon corretti, dai, ho già fatto la faccia. Ciao, già, ciao, ciao a tutti. Ciao, fra, buon corretti, buon tutto e buon lavoro per la domani, ce la sentiamo le prossime. Ciao, ciao, ciao, ciao, sono stanco molto, ciao. Sentiamo, c'è la Mario. Ecco, già riprendo. Insomma, quel che cosa stavate parlando, che mi ha chiamato Antonello al telefono e adesso l'ho lasciato da una parte. Sì, stavano parlando di costruzioni di rete della rete. Io non le ho mai viste, non so una cosa come sono fatte, sinceramente. Però io sono stato con l'amplificatore della macchina, che ce l'ho un amplificatore di macchina, l'ultima volta. Perché se no ci vogliono le cuffie per l'auricolare per poterlo ascoltare, capito, la roba. Perché il punto di amplificazione non c'è, infatti solo per cuffie lo puoi ascoltare. Ma non so, io infatti io ce l'ho una cuffia, sono un auricolare, bella, proprio d'epoca, bellissima, con i connettori a vite che si fissa sotto, proprio, cioè fatta come in stile d'epoca, praticamente. È degli anni 50 proprio. Questo è la mia stima che vuoi avere una radio, non si va in là. Bella, la situazione è carina, poi c'è il cristallo in mezzo, poi si vede proprio fatta da un coso, da uno esperimento, carina, veramente bella. Ma l'ha provata, no? L'ha provata, non ho ancora avuto modo, me l'ha data ieri, proprio ieri l'ha portata, mi ha dato una cassetta, mi ha detto che dico, c'è addirittura la voce in stile, mi ha dato queste riviste, non riviste, questi fascicoli di scuola radioelettrica, se chi la conosce, c'è tutto lo studio per prendersi il diploma di elettrotecnica e poi mi ha dato un sacco di componenti vecchi, qualche valvola, eccetera, eccetera. Poi mi ha portato un po' di autoradio di macchine, questa è una persona anziana, autoradio vecchie degli anni 70, cose così, mi ha dato qualcuno. Di quella che c'erano tutti 50, che c'era tutto il manloppo insieme, il cazzo e il diciamo, non è proprio, non sono vecchissimi, negli anni 70, dai, non so se ti ricordi quelli, Voxon, Autovox, quelle autoradio così. Tanto verde. Allora, prima di quelle, tanto verde è più recente, dai, prima, dai. Tantissime, non so dove metterle. con le, la mobiletta, se è presente. Negli anni nel 53-55 da un giudice a Genova, ti dico cosa sarà, ma di grandezza, fatti conto che è alta 1,5 metri, diciamo 1,80 metri di larghezza, si apre sopra e c'è un giradischi, a fianco al giradischi c'è la stazione microfonica, a fianco alla stazione microfonica c'è il, come si chiama, il registratore a bobine, però con cavo d'acciaio, a cavo d'acciaio. Figurati. Dove c'era il bello? Anche a noi già piacevano quelle ragioni d'epoca, ma non metterne tanto, metterne una come sopravvivere. Aspetta che non ho finito, poi dal frontale c'è una televisione sul lato destro, poi ci sono due radio separate, perché questo è stato costruito apposta, c'è la parte FM perché la modulazione di frequenza all'epoca stava nascendo, c'è un pannello, c'è la modulazione di frequenza e sotto un altro pannello con un'altra radio dove ci sono onde corte, onde medie, onde lunghe eccetera eccetera, tutto comandato con un interruttore a chiave, con tutte le spie che si comandano quando giri, commuti tutte queste cose. E poi sotto ci sono gli altoparlanti. Questo apparecchio peserà un centinaio di chili. E dove ce l'hai questa casa? Io me lo sono messo a casa, ma è un'opera d'arte, se ce lo vedi è allucinante, tutto in radica. È una cosa enorme. Antiche, non fosse a voi, ma Dio, mio padre dice roba vecchia, mondetta, a me tutto quello che trovo di roba antica, può essere un vasetto, un coso, uno strumentino, una cosa mi costa tutto. Ci vuole spazio, ci vuole spazio. Io sono preoccupato, mi sono lanciato per quelle. Per quel coso, come si chiama? Aspetta, sì, ma io non intendevo offendere nessuno, Mario. Tanto è vero che questa modulazione no, non ho niente da scusarmi. No, no, per carità, con me non ti devi scusare niente, ho detto che lo stesso ti è riuscito, tutto lì, e che io, niente, stavo cercando di ricordare questa Teresa che però poi l'hai nominata tu stesso, non c'è problema. Tutto lì, ti è riuscito lo scherzo, va benissimo, non è che ti devi sposare con me, per carità, ci mancherebbe, perché anche io qualche volta qualche scherzo lo faccio, però a livello così non intrometto mai nessuno in mezzo. Vabbè, Tino, che ero io stai usando adesso? Il Mobico, non caro. Il Mobico? A te l'ha venduto? Non vado neanche telefoni perché non si può salvare. Capito? Dai, Pittina. Mi sembra Falcone, io. Manco più accendere l'interruttore. Mi sfambio anche corretto. Già non ci sto entrando qua. Che sto entrando pochissimo. Figurati. Meglio così, almeno lui la cosa va a costare poco. No, no, la roba rimane qua. Rimane. È un avviso delle bestie. Io ho capito, caro, capito. Comunque, visto là che sto diventando sensibile anche io, eh? È proprio vero, gatto, se stai molto alla radio ascoltando, metto di fuori tutto. A te lo ricordi quello che ti ha voltato dell'FM500S, avanti Natalino, senza dire niente, e non sbagliavi, ma la so. Orecchio la parecchio diceva quello. Quando io prima l'ho riconosciuto non per la pubblica, ma per il modo di parlare, capito? Vabbè, io sai che metto per fare bidoni anche, lo facevo io da piccolino. Naturalmente quando mi giravo l'antenna ci fa di base, faceva meglio di lei. La torta buona, con la canna fresca. Sì. Nelle stazioni Jean-Marie Figaro, naturalmente, e noi la torta nuova. E sono andato in Ottobre, stazione in Ottobre, da Porto Ottobre c'è solo. E io con la lente ho tirato l'antenna per fare due cubi. Ma io quel periodo è un bastardo forte. La sotto casa che rizzito, già lo grido. Se trovo l'appartamento lì me ne vado lì, non vado a abitare, mi faccio schiattare. E quindi ti torna con la direttiva tra i elementi. No, e come faccio? No. Avanto quando mi piazzo sopra. Basta avanzare di con 2,5 metri di sparo. Appagappa. Da lì si mi porta, Cazzo, da lì parlare con il racciso, parlare con tutti io. Rosso, andiamo a trovare il geometra, se trovo il geometra glielo dico perché me l'ha affittato a 300 euro. Se torno lì, 1-2 facciamo morire e torna. E tu facciamo ingrassare a Carlo, gli faccio comprare un altro bar, faccio comprare. Quello è vero, ma quando sono mancati noi. Ma te lo ricordi che la confezione è un bar? Sì, se no l'esco si veniva bene, lui via. Quando sono la comunità, sono un bar, la tutto. C'è il bar, c'è la tua nei posti, contro la vostra solaria, ogni giorno. Ah, Gianni, quello che ti ha fatto? No, sta qua io. Allora, fatti girare, io. Parte partecipe anche a Gianni, che se no succederò a me buonanotte. No, io sto ascoltando, non c'è problema, non è che sia molto bene, ma... L'ho vedendo dove mi sembra di parte, fa la gira, boh. Boh, non lo so, Comunque... Non la pigliare sotto gamba questa influenza, anche quando male che sei meglio da voi, per la specie di ricaduta. Ah, vero, perché Natalino, se quei decisori si sente sempre male. Avremmo fatto più male la ricaduta che l'influenza delle frutte. Non sempre male, ancora non sono scritto. Perché l'altro non c'è pollo in casa. Ma sarà avviata, no? No, quella è l'influenza dei vigili urbani. Ha bagato Alessio. Abbiamo esaguto con i cosiddetti per il sicuro. Riprendi, roba, riprendi, e questi cazzo ti fanno venire in mano nuove. Comunque, finalmente un po' di allegria ha portato Tino, veramente è una cosa particolare. Mi stavo fissando la risata e poi mi ha fatto ridere Claudio. Qualche dubbio l'ha avuto anche Claudio, che ha detto, ma visto cos'è? Un travestito. Qualche dubbio è venuto anche a lui. Ma a me sentito mi hai e c'è una murmurazione. Non ci ho fatto caso, Natalì. Comunque l'hai cassato subito, la giumai non futti a Mario. Io stavo pensando forse con l'amico vostro, come si chiama, il pizzicato. Vabbè, ancora tu non conosci a me facendo la voce da donna, se no ti pisci sotto, te lo sto dicendo. Ma te lo ricordi quando facevi la voce del Papa, quando c'eri Lecco, Ali, che dicevi la messa? Sì, c'era anche la Lecco, nel baracchino di Giovanni Mistero. faccio male, ve lo faccio, da se siete voi, faccio lei quanto la voce della donna. Sì, fai la messa. Allora se non metto un po' l'occhio. Ma te lì, è perché, senti, non era bella quando facevo la voce di Mariuccia. Cazzo, stai a fare la bomba, te lo ricordi quando io li facevo la corte di lì? Ah, cara, Edu quando la bozzava. Guarda, ti pensavo che l'avrei risato. Guarda, credo che Stefano è stato l'unico CD che gli hanno fatto la corte della ragazza al baracchino, ha detto non voleva scoppare. Diretta al baracchino. Che dico? Ecco. Noi quando li si va, Mariccia. E allora bisogna fargli da logica. Non so dove abita quella ragazza che gli facciamo la corte, tra ricordi, quella che gli portava le pasta. Abita vicino a casa mia. Di fronte all'edicola abita, un po' piano. Ma chi è quella? Io non me lo ricordo. Tutti ricordi più di cosa? Ma lì quella parlava da Carbonazzi, non te la metti lì. Di chi? Di cosa? Di cosa che mi doveva la Carbonazzi? Ehi, se ne sono fatto un sacco che sono parlavata mai, come si lo fa? Ah, non fa niente. Facciamo delle tette, sembrano due paraurti, non te la metti lì. Tette che sembravano due paraurti. E una già me la ricordo che era fettona la banassa. Ma Daniela? No. Ma un giorno è stata una banassa, aspettavo per una di quelle vie dove c'è il centro del Camagrazzo, il Banco Sardegna, una traversa di vita. E io tua sorella, quella abita adesso, di fronte all'edicola vicino a casa mia. Ecco. Non ti dicono che sei più fatto l'altro. Sì, non so, la cosa è stata dove sei entrata. C'ha tutto me. Acqua alimentatore, baracchini, antenne, tutto qua. Non so che ce ne abbia fatto fare. Ma che bello, io? Nonna, può fare la sua fattoria. Come si chiamava? Dimmi l'iniziale del cognome, Natalia. E chi? La Daniela, che forse ho capito chi è. Abitava dietro la via dell'edicola, come si chiama? Via, mi sembra via Umana, quella lì. Ma no, stai travisando, non si chiamava Daniela. Adesso non me lo ricordo che si chiamava, ma non si chiamava Daniela, va. Io ho pensato che fosse quello. No, Daniela, che aveva anche una sorella che modulava. Non è quella. Non è Daniela quella che modulava anche la sorella? No, no, no. Non è quella lì, questo stiamo parlando, se c'è Daniela, quella che c'ha la partita rossa, non è quella. Vabbè, Daniela era anche quella lì. Sì, lo so, era la ragazza di Fabietto, penso te, che abita lì nelle partite rosse. Di su poi abitano anche due ragazze che modulano, che modulavano perlomeno. Roberta e poi Chetti c'erano e poi c'erano altri due che abitano la parte di Claudio e poi non sono più sentite. E mi sembra sono sposate anche loro, buttano su. Se Roberta e Chetti non c'erano una nuova. È vero, no? Ma la riportate di Chetti e Valim. Il telefono di rientrare. Oh, non ce l'ho più il numero di telefono. Con lo Smith, sicurino. E qua se non eravamo buscati, non so che cosa. Appunto. Ma c'è un numero di telefono, ma che noi telefoniamo già? Da casa tua, ora qui, ora la cabina, dove capita? Cosa facciamo entrare? Mettiamo un lì, il coso se c'è ancora, se non sono so se è sposata, fidanzata, blu. Ma non me la fate montare, scusa, avete perso seconda? Beh, da quando l'abito al posto, mica sono a Carbonazzi, io ti giuro. Vabbè, ma sono gli amici, ci telefono, c'è il sito del telefono, eh. Sì, c'ho tempo di telefonare, sai che quando sei ormai sei tranquillo, hai pensato a cose, hai pensato agli amiche, agli amici. Se ti l'ha più visto, ma quanti anni ti ho visto bravo due? Non sono andato, quello che tutti giù a rompermi le balle, adesso non vedo più nessuno. Da quando abito, cioè quando sono andato via da Venezia non ho più visto neanche un cane. E poca gente ho visto, uno, due, forse tre, dice B. Quindi tutti quelli che venivano. Perché lì ci aspettano anche gli abitanti, i vini, eccetera, eccetera, ci sono le campanelle, non lo ricordo, sei anche in chi vede amica? Sono un Antonio. Sì. Allora sai che ho visto l'altra sera? Prima ho visto Gianni Bravo 2 e poi a Manicomio 2. Ah, vero? A cosa vivo, Andrea? Sì, qua. E vivo in Veggetto. C'è le camere da carta, c'è sempre anche lui. E come fa a entrare? Mi sembra che la famiglia... No, gli è rimasto 546 X, sono stata venduta. E il 2009 c'era ancora, ma dovrebbe essere in mezzo, boh, chissà che cosa, era bruciato. Il 2009 c'era bruciato. Andrea, c'era il 2009. No, io sto parlando in mezzo a Cartuccia, non sono ricordo Luciano. Luciano ho visto l'altro giorno qua al corso. C'ha tutto ancora. Mi ha detto che c'ha tutto, che vorrebbe entrare, solo c'ha paura di tirare il colpo, mi ha detto. Oppure a te parlo male di quello e a cioè la malattia lì non c'entra nulla. C'è il gasone, fa un raggio, va tutte le mecchie e mamma mia, che fa raggio con un altro? Cappa, perché, cioè, non so che cosa voleva fare, forse perché si sentiva inferiore, perché era molto grasso, e che camminava a buraco San Messing in subirino, quando era entrato al baracchino. Beh, forse si voleva fare bello con le figlie di come si chiamava quella lì? Quella che ha nominato un po' adesso, che abitava nel Palazzo Rosa, Daniela. Vabbè, se voleva fare vedere bello cosa, a iniziare a imparare tanto di cazzate, di cazzo, e la madre di cazzo che adesso si è le braccia, che si è mai dato tutti gli antimali. E se mai si dice, non si è mandato una mano, e la vostra è scesa a peso tutti gli antichi cose. Basta, una figuraccia, guarda, se lo trovava Pollicino, io dico che gli avrebbe messo la testa dentro un culo, a chi a fare la rimedia in concetto la gli ha fatto diventare tondo. Ma io me lo ricordo una volta, diceva il fotografo che si è avvicinato Pollicino e l'era minacente. Ha detto, non mi fatti di Sigosi, Sigosi, te lo conosci, non so cosa. Ma è stato un po' che ce l'ha con te. No, se c'è la cosa, hanno capito male loro, boh. Ma ti pare a te che io, cioè se io devo dire qualche cosa, ti chiamo davanti, te lo dico davanti, cioè non è che vado da tua suocera, da quello, da quell'altro, a fare chissà che cosa, che poi ha fatto un buco in l'acqua perché ha visto la serietà di Pollicino, la serietà mia perlomeno nell'ambito tra di noi. Tutti quanti gli altri, Tonino, c'era Bambolina, eravamo in tanti, eravamo, c'era il fidanzato di cosa, e niente, eravamo tutti quanti in gruppo, ci conoscevamo tutti, e Gesù, e sì, tu dicevo sì, papo di fuoco. Avanti, Roma. Vale Forretti, vi saluto a tutti, ciao Mario, ciao Natalino, ciao Gianni, ciao Antonello e tutti quelli che stanno ascoltando. Ciao Claudio, alle prossime, ciao a tutti, buonanotte. Ciao, ciao Roma, buonanotte, avanti Natale Coso. Ciao Roma, ci sentiamo alle prossime, stai bene. Buon credito, buon tutto. Natali. Ciao Roma, alle prossime. Ciao Natale, non riesce mai a capovedere. Ciao Robè, buonanotte e buona giornata per domani, là, ce la risentiamo. Ciao ciao. Natale. Soddisfatto sei che sono senza bitti, no? Come? Soddisfatto sei che sono senza bitti, ho detto. No, ma poi che sono soddisfatto, ognuno può fare quello che vuole fare di più. Io facevo i bitti prima, adesso non ce l'ho più, adesso faccio tutto al limite, quando finisco di parlare. Già lo so, già lo so. Cosa stavo dicendo? Eravate molto amici, non eravamo sempre insieme in macchina, Sì, ma poi hanno sgarrato. Ha preso pure il colpo dopo, prima l'ho preso io, poi l'ho preso da solo per me, perché gli ha fatti quel così, colpi in faccia, è diventato più gonfio di quello che era prima, la verità. Perché ha detto una cosa che non è vera, sono andato a dirla, a baracchino, e quindi poi lui si è negato, eccetera, eccetera, e quindi io gli ho schiaffi, scappi da pesare anche lui quando l'ho trovato, altri schiaffi anche il calci. Adesso, tuttora, quando mi svegli, dice anche scusami per quello che ho fatto. E poi, comunque, scusa, non ce ne so, gli ho detto. Mi avrei sempre, gli ho detto, è stata battuta, gli ho detto, non ti ho, perché quando entri, sei morto, gli ho detto, solo quello che devi pensare. Anche braccio, tu puoi neanche mangiare. All'inizio non avevo fatto, ma adesso non vengo dal baracchino, perché siamo andati a lavorare, ma c'è 50 euro. Non c'era più il baracchino, da l'altro mi sembra cambiata cosa, non era più comunque, era contro i soldi, non so cosa aveva combinato e se l'ha venduta, capito? Come mi ha detto che c'era il 40 e il baracchino ancora? No, non dire, che avendo solo tutto. Ehi, un ragazzo un po' stranito, perché andavamo a pescare per dire, ascoltavano dalle 4 sotto casa, 4 e un quarto, 4 e mezzo, devo venire, io me ne andavo. Dopo mi telefonavo verso le 9, ah, già mi sono dimenticato il cellulare dopo la volo, e non mi ha scusato la sveglia, questo e quell'altro, io devo telefonare il volo. E io ti sto a pescare, se lo venivi, se no va, se non c'è problema, io amici qua ne ho. Se non ci venivi tu ci sono gli altri a parlare. E dopo veniva verso le 9 e mezza, lui mi abbigliava. Allora andiamo male, alle 6, 6 e mezza, alle 7, ti verrà là. Guarda, io mi sono molto divertito, che e Mario sa, con Gianni di Ussi, che nonostante Mario diceva che era un coraggio, noi siamo divertiti un bel, andavamo, uscivamo, andavamo in campagna, ci ubriachevamo, quello che era, ci divertivamo un bel, come Andrea, i veri amici, mi sono divertito la verità. Non c'è stato mai nessuno scandalo, perlomeno, che mi ricordo io non è successo. mezzo, anzi andavamo tutti quanti d'accordo e bevevamo champagne, pom pom. Sì, sì, è vero, è malla. Comunque è la ragazza che aveva fatto volante l'alba, insomma, si ricordava. Sì, l'Immacolata si chiama il giro di battesimo. No, no. Quanto mi ha abitato la mia ex ragazza, però quello te l'ho chiesto. No, la Cabolazzi. E vabbè, dice la Roberta, ce l'ha chiesto. Sono due anni che non mi avevo da dittare, sono due anni che non ci vado a stare. Grazie, perché... che te lo seguo di persona e qui non sono più andato, ho dovuto fare una scelta, capito, perché è una cosa bella, mi sono trovato, che posso dire, in una situazione ben strana. Ho capito, ma non mi hai raccontato me tanto, quando ero regalo. Esatto, sì, quando gli facevo i regali qualcuno si è messo qualcosa in testa e quindi, cioè per me è un'amica perché ci conosciamo da piccoli, però quando poi, cioè da amica, la madre ti viene a dire una cosa del genere, ci rimane anche male, che cazzo, questo sta cercando, no? Io sono già fidanzata, ce la faccio, ho fatto una scelta, giusto? Vabbè, le persone antiche magari la pensano così, capito? Che tutti abbiano interesse se fanno un regalo. Non capisco anche non può essere amico. Io ho avuto più amiche donne, dico la verità, che maschi. Io ho avuto con le amiche donne, però guarda, mi sono trovato più bene con Roberta che con Kitty. Kitty io non andavo d'accordo, io. Ma c'era niente da fare, non lo so. Non c'era niente da fare. Però con gli altri tutti d'accordo, ti ricordi anche Fabiana, entrava a Bellachina, entrava tutti quanti i giorni, non c'è chi, non so cosa diavolo c'era lì, non avevamo d'accordo, non c'era niente da fare, ha negato tutti e due. No, come ci andava d'accordo? Sì, vabbè, è discorso diverso, però non te ne dice, guarda Antonella, falla parlare, ascolta, detto, però voglio far parlare, però il discorso è questo, detto, poi detto, le fa venire tutti i giorni, detto, da 27 sto a casa, mi trovo anche ragione, è come se parlassi una ragazza vicino a casa tua, a 100 minuti me ne venissi in macchina, ti dà fastidio, che ti viene colpi, questa cosa era uguale, potevo lì, tu c'avevo un effetto di 50, un cazzo ti aveva colpi. Che eccezione, ma manco morto lo pigliava. D'accordo, io me la stavo fiandando, scusa, se permetti. Sì, d'accordo con te, anche Natale, io sono stato fiandando, perché eravate ogni notte lì, ogni sera lì, scusami, eravate giovani, avete fatto bene a fare quello che avete fatto la verità. Però cazzo, tutti i giorni sto a casa mia. E cosa avresti fatto a posto mio se io fossi stato adesso? Come adesso? Avete parlato magari a tutti vicino di casa, a 100 metri, tutti i giorni io con la macchina lì a parlare in un altro canale, ti saresti infastidito per i colpi, avessi pigliato, no? Perché venire, beh, non potete il cellulare se volete parlare, poi uscite assieme. Non basta però. Sì, ma c'è un po' gelosino tu di la verità. E un po' gelosino anche. Comunque sono andato anche a provare, non sono visto. No, la verità, geloso o non geloso, perché non me ne fregava niente, no. L'unica cosa che mi aveva fatto era geloso era prendere il colpo mattina e sera, perché parlavate con loro due, io non potevo neanche cambiare il canale, forse era quello, ti ricordi che c'erano quelle ragazze, non c'erano solo loro due, c'erano altri. C'era cosa, quella che burlava la... Fanculo, non mi ricordo più adesso, via vicino a Gabriele, ma non avevo un'altra ragazza che aveva barattino, per cui si era sorta con un altro tipo, adesso mi viene in mente il nome, c'era la 1, c'era anche quella, c'era. Oddio, ce n'è una che non avevo mai capito chi era, avevo perché salivo in piazza, parcheggiavo la macchina, che cosa fa a casa, c'era un baracchino, diceva, ciao Gianni, sempre più bello, oggi è vestito così. Nella tua macchina c'era questo, anche quel golfo che c'ha lì, questo e quell'altro, non ci ho riuscito mai a capire che cacchio è. E l'ho saputo io chi era quella, l'ho scoperta con Roberto Banditto, e l'abbiamo sentata alla cosa, abitava in via La Marmola quella, che c'è tutto un viso, si chiamava. Perché non me l'avete detto, che c'era sempre a questo. io ho scoperto perché un giorno mi sono messo in baracchino nella moto, ho portato e sono andato in via Gabino Pesce che abiti che in una cabeza di ramo l'ho beccata con lo scala. Quando l'ho vista scendere, io ho giocato un paio poco brutta già, però ci aveva diventato già al corso, adesso non c'è più. Quando gli ho detto tu ci hai diventato al corso, io quando vai gli ho diventato per una settimana. Si chiama la Ines, no, per caso? Non me lo ricordo, si chiamava comunque la barchina, poi non so se era di Ines, ma... K-Gaffa. Ma lo ripeni, dai, il tuo giovane non c'è altro, ma che ragazzo vai. No, a barchino no, anche perché io, diciamo, giovane, c'avevo, un periodo lì c'avevo, quando io ho iniziato col barchino c'avevo... No, 27 anni, 28 anni. No, io molto prima, vero? Cazzo, ma io devo che avevo in macchina con la fetta. O dico parliamo che ci avevo. Cioè, ragazzi, io non mangiavo un bittino, a me piaceva, e con la Giana, no. E quando modulavano quelle da corso, che Torino quando ci... mi trovavo chiacchierando con loro mi diceva Mario, ma cosa ci stai provando? Ah, ti ricordi quelle di Ottava? Una c'era di Ottava, per carità, mamma, non me ne parlare, guarda, mi veniva i negozi a me a girarmi le balle. C'è altra nella lista? No, ce n'era anche un'altra che era un bel carina di voce, è vero, erano in due, erano. La voce più bella della frequenza, sapete qual è? Quella di Luce. Non so se sia ancora vivo, ma... Aveva una voce che era uno spettacolo. No, non è solo quella. Volava anche cioccolatino, come si chiamava quella di... Che volava quella di cucchiaini di punti, non mi ricordo, cari, se no. C'era una voce bella, veramente bella, tanti anni fa. Perché Paola Puccicacca era il baracchino, aveva una voce molto dolce. E poi la vedo ogni giorno io. La vedo un sabato facendo una spesa alle 20, cosa abbiamo finito. C'è dei palaotti. Sì, era carina da piccola. Adesso che si è fatta più grande, magari sarà ancora più bellina. E magari è anche sposata ora. Sono mai sposata. No? No. C'è per signorina, eh? Sì. Ma è piaciuta bene la vita. Capagliamo. Erano successi un poco di malumori. Servirono un bel di buon invoco, diciamo che la frequenza si è anche un po' sgretolata per quel motivo lì, perché purtroppo era un periodo che c'era un po' di conflitto, perché ti ricordi che c'è per quello anche Torino andava a cercare col baracchino da dove modulavano, da dove non modulavano, era un po' curioso, voleva scoprire sempre tutto. E dice, me lo ricordo, cioè. Tu non ho visto molte cose, non sono più visto. Non so se la prima lacchina se deve comprare, boh. Quello lì io non lo so, però io l'ho trovato un paio di volte a pescare e ci siamo trovati lì tranquillamente, chiacchierando, facendo, ricordando anche le vecchie ciompre, niente, capito. Però niente di... sempre tranquilli, no? E ultimamente poi aveva anche cambiato casa, è stato poco, poi io non ho più modulato, però credo che poi non abbia più modulato neanche lui. No, neanche io ho sentito la vita. Sono gli aia. Gianni. Quei tempi, qui ce n'era una di Ossi. Che mi ha invitato in discoteca, ci siamo conosciuti. E io ho conosciuto qualcosa, quella che c'è la pizzeria a Ussi. Capagà, quindi insomma, prima già avevamo da fare, ma insomma, ti è venuta. E quella che modulava la floa, che te ne ricordi già? E certo che non me la ricordo, è sceso nel sottovese a conoscermi di notte, a mezzanotte. Gappa gappa. E va vabbè, erano altri tempi, comunque ci divertivamo ed eravamo più sempre in greppa, perché io mi ricordo c'era un periodo che con Natalino, se te ne ricorda, con Lando, con Pompugno, con Manicomio, ogni tanto ci organizzavamo a mangiarci la pizza, a andarsene, non so, a Porto Torres dove c'era il centro radio, o andarsene a fare colazione, eravamo sempre di botta in rimbotta, capito, no? Un sabato da una parte, una domenica dall'altra e così via. Però erano quei tempi che si rideva, si scherzava, si usciva, ci trovavamo al bar. No, io non ero così. A me non mi piaceva conoscere i cibi, perché sapevo che c'erano sempre ciarlini, questo e quell'altro, quindi irritavo un bel. E poi ero molto riservato, quindi non mi piaceva sapere i cavoli miei, queste cose che parlavo. La frequenza, poi finito di fare il baracchino, le mie amicizie e basta. Poi, vabbè, mi sono un po' aperto e frequentando la radio programma di Sardegna, ne ho conosciuto parecchi. E ho cominciato da lì, poi a conoscere. Vabbè, ma tu quando eri con la Nuova Sardegna non conoscevi con un altro nome? Io con la Nuova Sardegna, Radio Club, Nuova Sardegna. Ah, Radio Club, no, perché ce n'era un altro, se non mi ricordo male, non era Radio Sardegna, era la Nuova Sardegna, si chiamava Gianni, Repubblicano, un altro casinista di quando entrava la mattina. Oh, no, ho conosciuto questo, non me lo ricordo. Sì, bei tempi. Ci siamo divertiti là in quel periodo lì. E infatti mia moglie odiava il baracchino. Adesso quando trovo il baracchino mi diceva che occhio a Gianni, questo e quell'altro. Mi diceva, guardate perché mi dicono così, cosa conviva, non ci sono. Forse Pomponi se lo ricorda, Gianni Repubblicano se lo ricorda Pomponi. E a voglia. E comunque poi c'era Piero Geppo o poi che altro c'era. Quando ci trovavamo in campagna da Pomponi o poi per carità. Era una notte che siamo scesi con il pistole in campagna a Pomponi, che poi le domande è venuta la polizia a cercare il pistole. E l'altro sono sceso una fioccina io, cioè la fioccina io, sono sceso con Gianni, con Stefano, sono io, e qualcuno ha sparato la fioccina, ha soltanto dove ho pigliato. Chi è? Oh! E poi siamo divertiti, e li ho fatti in campagna, mi sono ben divertito, la verità. E se no cosa sapete, se noi si fa due leva all'azzurra, c'era un porticciolo famoso incassato e ci si mette all'acqua della fogna. Infatti questo Saverio? Sì, questo Saverio. Ma frequentava da prima l'unici di questo, io pensavo fosse nuovo. No, lì c'era il giorno che c'è Saverio. Si divertiva, era piccolino, ci aveva avuto forse 14-16 anni, ma quello che combinava l'altro. Andava in bicicletta, blum, si è rimasto incastrato, si è come un salame in mezzo alla leva. Ma proprio ha fatto un boom, e dopo non si è più sentito. Sì, lo vedo spesso a Salvio, lì al monte, si è stato mi ha detto anche il palo. Solo che non so se vive, si è trovato qualcuno per portaggio o cose. No, io so che... Credo che si sia sposato ora che abita a Signori, perlomeno quelle sono le voci di corridoio, poi non lo so, so che c'è un'attività. Sì, ma convive la ragazza quella? Non lo so se convive oppure se è sposato, io so che abita a Signori e che c'è anche un'attività commerciale, piccolina, non è grande, però è lì a Signori, per quello che ne so io, poi non lo so. Sì, sì, ha detto a me. Ha detto che praticamente abita insieme alla ragazza e che c'è questo negozio, una videoteca, c'è. Capo, non lo so, so che c'ha una piccola attività e che abita a Sento, di Poli, ma a Saverio lo conosciamo da quando avevo 16 anni, non è ieri o avanti ieri, e quando facevamo gli spuntini da Pomponio, lui o veniva in motorino o veniva in bicicletta, un giorno è venuto in bicicletta come stava facendo Pomponio. E stavo dando attacco a mio figlio, no? Perché lui era in bicicletta. E niente, e un giorno io pigliato e ho portato mio figlio con la moto. E con la moto giocavo lì dove adesso c'è il centro vacanze, che c'è anche quello Virisi. E giocavo lì col motorino, no? Metteva in moto, faceva la salita, la discesa, poi giù c'era una specie di rotonda. Allora lui per farsi vedere, un giorno è venuto in bicicletta per farsi vedere, facendo lo spericolato, gli si cazzo la ruota in mezzo a cosa del porticello, si è parato, ma un bucato in mezzo alla leva. Ci mettevamo d'accordo, compravamo sardine, compravamo bistecche, allora c'era lo zemino, si comprava il veleno, ma sai quante volte lì da Pompurio a fare spuntini? Si poteva dire che eravamo buoni tutti i giorni noi lì. È bello. Anche io prima di sabato notte, stranamente ho disegnata che quando lì non viene a stracchetto. Il campo perché si faceva così prima? E perché prima, tanti anni fa, non facevano anche la cena per il Capodanno i camionisti? Allora, si riunivano tutti quanti i camionisti e facevano la cena. Era un po' come una specie di ritrovo, là. E così via, e così facevamo anche noi, però noi non come camionisti, ma come cibi così, capito? Sì, ma io facevo le sezioni di ambulanza come facevamo in notturni, sabato notte. Chi faceva notturni, chi non lo faceva, tutti stavamo lì. Chi faceva notturni non me lo faceva, non poteva bere alcolici, né vino, né birra, niente. Invece gli altri ci volevano bere, davvero. Poi perché anche lì da Andrea, una volta abbiamo organizzato lo stesso, una bella arrostita a Socorro Sardo, e era un casino di niente, ma pugliamo a cielo, davvero, e così, ma sono tempi andati oramai, poi tutti quanti chi si è sposato a destra, chi si è sposato a sinistra, chi ha mollato tutto, chi ci ha buttato un baracchino e così via. Davvero. E niente, adesso stiamo ricominciando piano piano, magari chissà, tutti quanti quelli che avevano gli apparati conservati che non lo riaccendano. E c'è molta gente che sta ascoltando che pensa di entrare probabilmente. KK, non è solo che io, tanti anni senza modulare, cioè qualche luna di modulazione me la ricordo, qualche luna no, a volte succede. No, io quell'altra lì non l'ho più sentita, ogni tanto modulavamo e poi c'è stato un periodo che doveva partire, è sparita da una frequenza e non l'ho più sentita. Non c'è nessun altro, non è che siamo monopolizzati, non è che c'è qualcuno, siamo dimenticati. Era Natalino, se non si è dormito. Abituato, sono addormentato. Ecco, qua ti faccio compagnia e ti faccio chiacchierare. se tu vedi la volta, certo che c'è dormito. Ehi, gappa, e beh, no, io, la verità, anche se mi dormo la una, alle prima della sveglia io sono sveglio, perché dormo col pensiero che devo fare, che devo andare, e così che via. E domani sono sotto casa di Claudio lavorando. Diciamo tre palazzi più avanti, però sulla destra. Io vieni per ieri notte, siamo stati conti in muscolo fino a una meno qui. Ma che lo muscolo cos'è in piedi in questo periodo? Mi pare che ci ha le tratte da recuperare. No, io purtroppo, è così, caro Gianni, o così o Pomini, è così che niente, oggi mi ha detto Mario, e guarda che abbiamo pigliato questo lavoro, così c'è qualche soldino in più, speriamo, anche me ne servono un bel chissomiglio, anche me ne vediamo lui separato. Cosa? Sì, ma l'ha detto lui, dice abbiamo creato questi lavoretti per guadagnare qualche soldino in più, in modo che ci sia qualcosa in più per voi, e me l'ha già pensato, ma è l'usaia in più, a chi siamo andati un bel mare, e niente, e purtroppo anche io devo fare salti mortali, minchia, perché a mio figlio il soldino per la maritina non gli deve mancare. Il soldino per andare, se vuole andare al cinema, glielo devo dare, così che niente, cioè devi far passare tutto da lì. E come si capisce? Quindi figli mio, due cosa vuol dire? Tu mi uno della tua età, della di tuo figlio, quindi so cosa ci vuole per scuola, so cosa ci vuole per vestire, so che cosa ci vuole, perché devono fare regalo agli amici che ci hanno il compleanno, e la invitano alle feste, e a mani volte non la puoi mandare, insomma, tutto. Capo, perché io non gli ho fatto la festa a mio figlio, al ristorante, davvero, c'era il padrino, c'erano le maestre, c'erano un paio di compagnetti di scuola sua, c'era questa ragazza che ogni tanto va, ogni tanto si arriva, e niente, però i soldini per pagare sempre da lì escono. Però non mai. Tu mi hai uno di figlio, e te lo devi trattare il meglio possibile come ti pare. Trattare la parte tu per fare più di me. Perché mi aiuto, io devo dividere in due, quello che devo devo dare all'altro. Sì, capo, adesso non basta. Oggi quando hai sentito il baracchino, è bravo, bravo, ma già lo sai già che cosa mi devi comprare. E cosa ho? Un computer portatile, 2 milioni, 2.000 e rotti euro, quasi 2 milioni. Aspetta, Mario. Guarda che stanno arrivando dalle lettere a casa, che stanno degli incentivi. Ehi, capo, a me ancora non mi è arrivato nulla, però se fanno il corso che danno il buono da un milione, come lo stavano dando all'indietro, allora può darsi che si piglio quello, se no la faccio un altro. No, ridanno, però non riprende adesso. Se quello lì lo danno, glielo ripiglio, portate, lo danno. No, perché quello che c'è a casa è da 1,8 giga, come velocità, e funziona benissimo. Solamente che non c'è l'internet, non c'è questo, non c'è quello, capito? Ed è un pochettino così sulle spine. E adesso mi sta mettendo un po' in croce che vuole il portatile. Sì, ma il portatile se non glielo va, perché l'internet non c'era manco il portatile. No, il portatile è fatto apposta per il telefonino. ma spero perché stai parlando di un'altra. Già. Mi sono riuscito da poco la ripresa della macchina. Allora sicuro paracchino. Ma vabbè, lascia pesare, poi passerà. Non so, anche io adesso mi sono messo pentito, no? ho aumentato il coso sui B, c'era un Galaxy, io non ce la faccio a resistere, quando lo vedo mi viene di troppo. E poi cosa stai gareggiando per un Galaxy? Allora, ma se aumentano ancora di più, di 150, no, mollo, non ce la faccio. K, già ci sentiamo anche con quello lì, non è necessario. No, io me lo sto pigiando perché il mio sogno era il 680, però visto che è un po' difficile trovarlo perché ce ne sono pochi e chi ce li ha si ritiene, e mi sto pigiando questo 140 se avessi alcuno. Ma mi sono trovato il 680. Ma cosa sta vendendo? Ma quello sì. Stavo scherzando, non lo so. Perché ma tu come di certo che lo meno, mi ha detto. Ci mettiamo d'accordo. Magari, ha fatto mezza battaglia per avere quel piede con Claudio. Gliel'ha dato, ma gliel'ha dato. Non le voleva dare, davvero. E tu figurati se adesso lì ci si vede il 80. Me l'avrebbe già detto Mario, mica sto vedendo un chico. No, non ci credo. Oh, io vado nella raccolta su Bruciano e questi momenti li stesi quelli. Vabbè, domani ci dobbiamo sentire con Antonio e glielo dico. Perché se no, cioè io ho dato mezza parola a Luca. Adesso lui mi dice Mario, metti dove sei 80. A Luca gli dico, Luca perdona, però ho trovato quello che cercavo. Allora, ti dico di più, che Claudio la sentita mi ha detto, dimmi quanto vuoi, capito? E lui ha detto, ne parliamo in verticale. Vabbè, adesso domani glielo dico io, e voglio vedere cosa mi dice. Guarda, io so che un altro non glielo darete. E a parità di prezzo so che lo darete a me. E guarda, ne sono sicuro, perché a parte che con Torello abbiamo bella cosa e cose, no, quante volte ci siamo aiutati a vicenda, niente, però non credo che ne venga Antonello, magari l'avrà detto così scherzando. Questo non so, ci ha tolto anche il mito. Kappa. E quindi, ha detto che lo venderebbe tranquillamente, brutto, non so se stava scherzando, non te lo so dire. Comunque, io spero che tutti questi soldi che sto spendendo, Mario, non siano spesi in bada, che magari questo ti abbandonino e mi ritrovo con tutta la roba senza poter modulare. Ma non credo. Non credo, anche perché è un buon passatempo, là. Perché vedi, la sera ti rilassi, ti vedo chiacchierate, si racconta del più del meno. E se no che così la frequenza va più che bene. Mi dispiace qualche volta, come è già capitato, che uno sta modulando e sta parlando magari di discorsi un pochettino così interessanti, quando si parla di questo, di quello, di fare qualche modifica, di fare così, di fare colà. Uno ha tanti anni di esperienza, magari dice, vabbè, facendo così va bene, facendo così va bene, tutti per ascoltarci nel miglior modo possibile. E poi c'è qualcuno che magari sovramodula, oppure in sottomodulazione, beh, infatti, là, ci ha paghito, ci ha ballato, vedi, così un po' che ti va simpatico, anche perché molte volte ci sono delle ruote e si dimenticano di quelli che ci sono e rimangono ben bianco. Lo so, quando sono trovate le ruote, infatti stasera eravamo divisi in tre carri. Addirittura, no, io purtroppo sto lavorando, grazie a Dio sto lavorando e ok, perché sennò non di essere disperato come lui, ma peggio. Io lavoro, quando stai lavorando ti tratta la schiaffo, se non ne hai è peggio ancora che sta male. Ecco, purtroppo che cosa vuoi fare? Devi stringere i denti e sopportare, altrimenti fai la figura del coso. Tu adesso immaginati se perlomeno per il carattere che ho io, cazzo che temo a chiedere una sigaretta che magari fa bai da animali, figurati se mi dovesse mancare il lavoro che mi metto lì a... non esiste, capito? Bisogna pedalini che ho fatto lì, subito non si mette a fare questi gatti. Io piuttosto che fare quella figura vado, lavoro anche se sono stato male e via dicendo, però vado, lavoro, almeno quello mi porto a casa, capito? Baracchino mi è sempre piaciuto, mi ha fatto sempre bene compagnia e niente, e molte volte sa, sei nervoso, tanto apparisci il baracchino, se vuole ti ascolta la faccia, passa tutto, perché ti rilassi e certo se sei incazzato con gli altri non te la puoi pigliare con quella della frequenza, perché non sarebbe stato nemmeno giusto, così che te la pigli un po' così, ci parli, vedi, scusi, vai. Però no, ti rilascia, capito un po'. E non vedi forte, anche a frequentarti fanno incazzare. No, perché incazzare? Perché ti mettono la portata, perché... Ma non è vero, io non è che mi incazzo, io sono abbastanza tranquillo. Mi incazzo quando c'è qualcuno che ti mette la portata, vedi, e che sotto modulazione parla male, e si nasconde, capito? La gente che si nasconde dietro il microfono, beh, che si attacca a tenere il suo sabotone. Eccellente. Io stasera sì, io pensavo che fosse Antonio, mi diceva, quello che faceva la donna. Ciao. Ciao, io stavo rimuginando, è un pochettino la verità. Non è che ci sono cadute in pieno, però stavo cercando di ricordarmi nomi, nomi, e qualche... perché pure le cose le scopri così, perché giustamente quando ci parlo che le cose saltano fuori. E stavo cercando un qualcosa per vedere se era veramente lì oppure no, perché che mi ricordo io, lei era molto malata, come lì, ma molto malata, e dopo tanti anni sarà molto più vecchia, anzi non sappiamo manco se si trova ancora poverino, perché stava un bel male, e niente, da. E vabbè, siccome io stavo per farle anche una domanda, perché lui aveva fatto il nome di Siriaco, però c'è stato un qualcosa che lo so io e Maria Teresa, gli altri non lo sanno. Io Maria Teresa ci parlo tante volte, a volte non fai leva anche, c'erano dei periodi in cui non fai leva, periodi che non poteva camminare. Pagata. Non lo so, sì, il marito era rappresentante di cose farmaceutiche, la figlia stava studiando sempre, perlomeno quello che diceva lì, che stava studiando i corsi per quello della ricerca della sclerosi multipla. E non ci hanno già beccato quella lì. Un giorno è venuto e mi ha detto già, sai che la sclerosi multipla, ma vuoi sicuro che va. Sì, cioè, a me Luciano da una parte mi fa pena perché vedendolo così obeso e coso, cioè un ragazzo che quando l'ho conosciuto io poi avrà avuto 17-18 anni, forse nemmeno. No, sì, ce l'aveva 18 anni perché ci aveva la mano. Sì, 18 anni ce l'avevo, ma ero un ragazzino, capito, non è che fosse... E da una parte mi faceva un po' bene, dall'altra parte... mi ha dato fastidio che al momento che l'abbiamo conosciuta mi abbia fatto tutto quel casino. E il cervello di Camilla, ha molti problemi, capito? Perché i genitori sono separati e cose, no? Ha sempre vissuto, lui la morte per caccia al padre, quando era piccolino mi raccontava che lo portava sempre a caccia con lui, il padre, eccetera, eccetera, adesso non lo vuole più avere, tre cose che fanno soffrire la persona. Purtroppo che ne soffrono quando si separano sono i figli perché dice ma è babbo, oppure che sono col babbo dicono ma è mamma, dov'è, quando viene, via, via, là. È un gran carico molto cattolica. Però cioè, uno è essere in mezzo, l'altro è essere così, come una persona che non vale nulla. Non c'è niente di cosa, però è così. E io non me lo sognerei mai certe cose, invece lui sogna un chiappino, vabbè, lui va, anche lui è malato, poi adesso gli daranno la pensione allora. Ecco, un giorno gli ho detto, la stavo pescando, mi stava raccontando lui l'ho parlato di male. Tu mi hai detto, Lucia, ma perché racconti tutte queste male? Perché all'inizio io a Bozzano faccio finta no, qui mi sono detto perché devo fare? Credo a lui che io sia così deficiente di essere lui a stare male su, allora insomma, la Lucia da amico te lo dico. Ti dico una cosa, che mi perdo tutti quando te ne vai, si raccontano le male a raccontarli e poi si mettevano a ridere, al ciso, mica se la vita si viene via, e non c'è lui. Meno male, quando mai un ragazzo del mare se ne conosce il freddo, tante cibi, tante strade, tutte quante cose. Non sei uscito mai. Ho detto che a fare tutto quello che fa lui, uno non se lo sogna neanche. Ma secondo me ha raccontato al figlio davanti a tutti i ragazzi, perché l'inglese è anche simpatico. Ha raccontato che ha sentito degli uccelli che stavano calando in un albero, è sceso giù, pingiava di notte, ha tirato la ficcata, ma lui sta sentendo una centinaia di uccelli, se li ha raccolti, ha preso, se li ha portati su, se li ha spennati, se li ha fatti arrosto e se li ha mangiati. Lei ha detto che non ci pigliate uno o due, no? Lo ripeto, una della segnata, mamma mia. Ma cosa adesso con una fucilata? Ma poi Mario, di notte, in pigiama, cazzo, si vuole col viralattico, questo è una riga, con un pigiama, boh. E cosa vuoi dire? Già, purtroppo si è malato, non è un pezzo. Poi a volte raccontava, ma padre si dimenticava di quello che aveva detto, gli erano come raccontava a me, gli avevo detto io, però che l'avevo fatto io. E lui diceva che l'aveva fatto lui, capito? Faceva del tutto per mettere c'è stata la tensione in posto. Non so come funzioni quello, però è così che niente, no? Io via non riguardo ne conoscevo un paio, però due erano sicuri perché conoscevo la vita della Corso, se lo mettiamo là, e Maribu. Allora Vincenzo. Avevano pescato la roba, non c'è nulla, e lì non stavo pescando, non lo ma qui io stavo pescando un buon giorno. Ci sono avvicinati, abbiamo parlato e cose come si fa. E ci hanno detto che loro erano dei professionisti che facevano scuola di lancio, tutte queste cose qua. Ci hanno detto non lanciare tutto quanto, e lui ci aveva detto che lui quando era in campagna una volta con un camion una scheda di cartone in un lago, pesci visi, a quintali, ancora visi, quindi non vendere a basso prezzo, in corsi, fare questo qui. Dice che loro ce li hanno tutti presi, ma pesci grossi, neanche di 4-5 kg, questi sono guardati, poi c'erano guardati, ma come dire, ma che siamo in dubbio, ma acqua. Succede. Succede che molte volte prendi queste figure perché uno che se ne accorge viene e te lo dice subito, cioè a cosa freddo, poi cercando di fulmina. Però lui, l'ho detto, c'ha quel modo di fare che non so perché si comporti così o perché faccia così. Secondo me c'è sull'inferiorità nei confronti degli altri, può far vedere che sei migliore, però così sbaglia. Capo che sbaglia, sbaglia alla grande perché è la cosa più bella che c'è quando uno è umile, dice ecco io sono così, se mi accettate sono così, se no sono sempre così ugualmente. Vabbè, certo che sì. E poi non è brutto Luciano, non è una persona brutta, divisa e cose, è solo robusto. È troppo, troppo, troppo. Non ce la fa di maniera, nessuna maniera. Ma secondo me non lo vuole, perché se vorrebbe dimagrire magari con un poco di peso ce la farebbe. Se non ve la fate una cagamina? Sì, ma quello lì lo te l'ho già detto io che non ce la faceva camminare, ma già da allora. Figuriamoci adesso che è molto più grande, cosa sarà? Ha raccontato a tutti che lui era un ristoratore che va per in gestione qua, che va per in gestione là. Una volta non mi ricordo che consegna pesce congelato, è entrato in questo ristorante e lui ha detto che era il suo, Luciano. È entrato e si è trovato un altro signore, ha detto, ma Luciano non sta più lavorando qua, Luciano. Vengono a non parlare nemmeno di quello lì. Lui viene lui ad un casino lì. Sì. E beh, adesso già, quando è che ricomincia ad andare a pescare? Non lo so, come comincia un bel tempo, in aprile magari, in aprile si può cominciare, aprile, maggio. No, io adesso, sabato notte vuole andare mio figlio col padre di questa ragazza a pescare, infatti mi ha detto, babbo, sposta la barca e togliere tutte le canne da dentro che sabato notte mi servono. E anche tuo figlio pesca, le piace pescare? Sì, a lui circa, lui già va a pescare lui e in estate si butta pure giù a fare la minea. Quindi ci ha passato la tua? No. C'è il burla, c'è il fucile, boh, la maschera con le pinne e basta, non c'è punta, non c'è piume, non c'è nulla. È giusto così, scende appena appena la pinnea, da un minuto a mezzo e poi si deve risare. Cosa stavo dicendo? Perché fa freddo ancora nel mare a pescare così. Possiamo andare in quel posto perché di qui non è un problema. Guarda, questo sabato. Questo sabato è il prossimo magari. No, lui vuole andare questo sabato a mangiare di comprare un po' di bigattini e niente là. Lui questo sabato deve andare a pescare. Oh scusami dammi, due minuti, ma 2 minuti in contatto che deve entrare in bagno. Dane. Quindi lui ha abbassato 5 watt, ha regolato lo switch. Quindi io adesso sabato devo procurare la canna a mio figlio. E poi, secondo come va, domenica ci sarà anch'io. Secondo come va, se non c'è questo, se è una bella giornata. Se no, no. Non va di aprile a freddo. Ma è là? No, così con la canna lì a Porto Torres. Ma se poi giornate incerte, cazzo. No, là, questi giorni ti ha fatto belle giornate. A parte stamattina che era un pochettino così e stava più ventilando. Vabbè che non stava su una cocco perché ero sempre in casa, salvando. Ecco, appagato, no, ma ieri, avanti ieri, ti hanno fatto belle giornate, là non erano brutte. Oggi era tutto il giorno così, un po' di freddo, poi si è messo più a vigilare e via. Beh, oggi stamattina me la sono passata un po' in capannone, poi sono andata a portare stasera i pannelli solari, lì giù a carica, li abbiamo piazzati così alla bella media, in modo che il tecnico doveva fare praticamente tre cose, fare i buchi per mettergli i tesseri per terra, un cazzo frutto, in modo da rimanere bloccato e da collegare voi quattro tubi. Aspetta, ma anche se per il gatto che sta a mia guarda è un modo strano, scusa. Gappa. No, era il bambino di suo. Che sono il bambino di suo al gatto? La differenza. E cos'è? Ronfa come te la gatta? No, non è che ronfa. Il gatto quando mi arriva, secondo come mi arriva, sembra un bambino, non è meno tanto. Quello è quando è in amore. E infatti si stanno facendo quello qui. Doveva essere subito, in modo che tu come arrivi con le ruote del carrello, la barca fosse già in acqua, invece è sbagliata perché ce n'è molto, c'è poca pendenza, è così che niente, ti devi usare tutto il carrello. Thank you. vuote più grosse, se avrà una vuota grande sarebbe stato ancora un guaio più grosso. La prima sono vicenda. Cappa. Ma tutta la natura, Marta, arriva. E allora? Quindi deve mettere il costume prima di andare in barca. No, il costume lo devo mettere da quando esco da casa, in modo che come arrivo posso viaggiare, buttare l'acqua, poi pigliare la cima, legarla, andare, toglierci la macchina col carrello, metterlo in parcheggio e poi andare a prendere la barca. Qui c'è la sala a Muglio, se la vive a sala a Muglio, i cibi in qualche parcheggio lì. Sì, ma non fa, dice che se ne rubano sempre tutto, non fa. Poi quando vedono che non sei di impostatore, che sei di cuore è ancora amico. E ho fatto che dice la capitaneria. Un mio amico che lavorava in capitaneria, che ha fatto la capitaneria, ma è che l'ha mitigato lui. Aveva già la motocano della carica con batteria, roba di quello di attriti di mordo, una fretta e tutto via di là. L'ho fatto comprandola e usandola praticamente un giorno. L'ho lasciata lì, ho detto intanto domani mattina rivengo, intanto mi viene a comprare lì, ho detto non sto prendendo nessuno, c'è la barca di vigile dal fuoco lì nell'angolo. E niente, ho detto lasciamo qui, domani mattina presto vediamo, ci andiamo, ce ne andiamo, poi domani sera ce la portiamo via. La strada laggiù e domani la gente fa di lui. Allora, non me ne avevano rubata. Poi a settembre l'ho ritrovata, e non per merito mio, per merito di mio figlio, perché sai come si usciva sempre in macchina, si andava qui, si andava lì, e il giorno quando per la porta sempre si è accorto, sempre ci stavamo cercando un amico nostro che ci trovavamo sempre, no? E niente, mio figlio fa passo al posto, ma cosa si dice? Non avevamo avuto tutto quanto le cifre, quello mi diceva che per malattia è abbandonato già anche il lungo. Comunque, no, non ci costa nulla. Ho pigliato, sono entrato sul posto vecchio lì, mi sono fermato prima al bar e abbiamo fatto quella cena e poi siamo andati lì a vedere dove ci avevano rubato la barca praticamente. Perché lì c'è la trovano abbandonata, quella della capitaneria, la pigliano, la portano lì e la mettono lì, sulla panchina. E andati siamo, adesso come ci arrivo? Dice, ma c'è la barcata, non so se c'è la barcata, non so se di cazzo è. Perché io non riuscivo a vederla. Ci avviciniamo, vedi c'è la barca veramente. Però non c'era più nulla, tutto vuoto, cioè al solito vuoto non c'era più corda, non c'era più nulla. Pensa che la corda l'hanno legata con due pezzi da metro lungo, l'hanno agganciata con la catenella, che c'era, e l'hanno lasciata lì. Ma il numero di matricola non c'era la barca per finire il salvo? Il numero di matricola, quella lì che ce l'avevo, infatti io l'avevo segnato nella riga. Però non ne avevano mai trovato, poi a settembre abbiamo ritrovato e forse l'ho ritrovata io, non neanche la capitaneria. Infatti sono salito su, ho detto guarda c'era, ho trovato la barca, allora ho detto mi calenta la corsa, come si chiamava, a Napoli, adesso non mi viene. E vabbè, comunque, quanto sta che poi l'ho ritrovata senza patini, senza 32 di bordo, senza lì, senza l'ancora, perché l'ancora era proprio sotto il volante, adesso quando ci salviamo si butta l'ancora, la teniamo lì sotto il volante, c'era una specie di tipo di così, a sinistra c'era la stanza con i salvagini, le cicore, balerrani, e a destra c'era il romaggio figlio. Ma tu dici che ci hanno preso tutto, e tutto quanto ci hanno preso, ci hanno lasciato una, ma poi lì. Vai, oh, io, ora c'è l'aria. Ah, ho iniziato a lamentano che rubano banche, che rubano batterie, rubano tutte queste cose qua. Anche perché vedono che fattore di voi che sulle vele la tentazione la vasca, però che le gente sono bene, poi lo portate in scappatore, se poi ha fatto la denuncia non l'ha recuperata e lo portate in scappatore. Il scappatore allora non sapevo le chiavi, non l'ha scelta pure, dicono che intendo, beh, la temperatura la deve essere un po' dura. Per loro va bene, da ciao.